Fuji Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. Buongiorno, un gran buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici di Radio Città Fujiko 103.1 FM, ore 10:31 e partiamo praticamente puntualissimi con questa settima puntata di Fuji Comics. Io sono Rachele Copparoni, sempre con voi, tutti i mercoledì dalle 10:30 a mezzogiorno e mezzo. E partiamo appunto con questa settima puntata di Fuji Comics in questo mercoledì 13 novembre, in cui tra l'altro è venuto fuori un bellissimo sole. Quindi sarà che Fuji Comics porta fortuna, perché anche mercoledì scorso era venuto fuori un fantastico sole dopo una giornata grigia e piovosa. Quindi sì, dai, mi sento di dirlo, Fuji Comics porta un pochino di fortuna. Ricordiamo come sempre tutte le varie modalità con cui raggiungerci, a partire dal nostro sito www.radiocittafujiko.it o altrimenti scrivendoci con un sms, un whatsapp oppure un messaggio su Telegram al 333 18 09 494. Ma veniamo alla puntata di oggi e iniziamo come sempre con il parlare di musica. Gli artisti, i cantanti presenti nel corso di questa puntata saranno coloro che, come dire, nel corso del tempo sono diventati paladini, dei diritti della comunità LGBTQ+, perché sarà proprio questo il tema che attraverserà la settima puntata. Tra l'altro ho appena letto che c'è bisogno di parlare ancora di queste tematiche anche all'interno del mondo dei fumetti. E ho appena letto che il comune di Lucca chiederà scusa ai due ragazzini vestiti da nazisti che si sono presentati come dei finti cosplayer, diciamo così, a Lucca Comics. Quindi direi che ancora c'è bisogno di parlare di queste tematiche, e facciamolo subito attraverso la musica. Iniziamo con un grandissimo cantante, con un'icona della musica internazionale, sto parlando di David Bowie. Vi farò ascoltare Rebel Rebel, che è una delle sue canzoni decisamente più famose, pubblicata nel 1974, la sesta traccia ed è anche il primo singolo uscito dell'album Diamond Dogs, ed è anche la prima hit senza, come dire, l'accompagnamento della chitarra di Ronson. E quindi andiamoci a sentire subito David Bowie con Rebel Rebel. Ed eccoci qua dopo David Bowie, torniamo un po' a parlare della nostra puntata e andiamo a vedere che cosa ci propone questo menu della settima puntata di Fuji Comics. E ritorna anche questa puntata la rubrica del consiglio di lettura della settimana e quest'oggi avremo come ospite Francesca Casano, in arte Francisca, che abbiamo già sentito la scorsa settimana. Se vi siete persi qualcosa della chiacchierata che mi sono fatta con lei, mi raccomando, andate a riprendere il podcast che trovate sia sul sito di radiogettafugico.it o altrimenti sulla pagina Facebook di Fuji Comics o sulla mia pagina Facebook di appunto Rachele Copparoni. Successivamente all'interno della nostra puntata faremo una bella chiacchierata con Salvatore Callerami, parleremo del progetto che ha presentato a Lucca Comics lui e l'orso e anche dei tantissimi progetti futuri che lo vedono già impegnato, quindi occhio che ci saranno tanti spoiler sul futuro. E successivamente anche una bella chiacchierata con Cristiana Fumagalli, il suo nome d'arte è Arte Sghimbescia, spero di leggerlo bene perché ogni volta questo nome mi crea qualche difficoltà, e con lei abbiamo parlato proprio di questo strano nome, di come le è venuto in mente, che cosa vuol dire per lei. Abbiamo parlato dei suoi progetti attuali e passati, insomma ci siamo fatti una lunga chiacchierata. E per concludere, ovviamente nell'ultima mezz'ora di Fuji Comics si parlerà degli eventi della settimana curati dal nostro Alessandro, gli eventi bolognesi in cui si parla di fumetti, di graphic novel, e andremo anche un po' a sbirciare tra le nuove uscite, qualcosa che è stato annunciato ovviamente a Lucca Comics, immancabile parleremo del Billboard Bull, la fiera, diciamo l'evento dei fumetti che coinvolge l'intera città di Bologna, che diciamo la data è sempre più vicina, quindi bisogna tornare a parlarne. Ma continuiamo con un po' di musica. Ora ci andiamo a sentire George Michael, che con questo pezzo, pubblicato nel 1992, è stato estratto dalla raccolta di Red Hot più Dance, e il suo video, il video di questa canzone che si chiama Too Funky, è pieno di quelle supermodelle famose negli anni 90. Ma ora ce lo andiamo a sentire, Too Funky con George Michael. Let me radio yours. I'm trying to get to sleep. Ma veniamo al momento del consiglio di lettura della settimana. Come vi avevo appunto anticipato, quest'oggi abbiamo di nuovo come ospite Francisca, nome d'arte di Francesca Casano, fumettista nata a Ronciglione, classe 88. Francisca inizia fin da piccolissima a disegnare e passa appunto l'infanzia a disegnare e a giocare con i colori, e il fumetto, diciamo, che inizia a far capolino vero e proprio all'interno del suo mondo al liceo. Infatti, durante il periodo dell'adolescenza entra a far parte del giornalino scolastico, in cui fa delle strisce umoristiche che creava per, come dire, prendere in giro, fare un po' il verso ai professori, quelli più particolari. In realtà poi la sua carriera scolastica di studi cambia un po' percorso, perché si laurea in architettura, ma durante gli anni, diciamo che la passione per il fumetto, per il disegno, prende sempre più piede e diciamo scalza via un po' quella per l'architettura. Infatti a 27 anni decide di iniziare un percorso di studi alla Scuola Internazionale di Comics. Questo percorso si conclude a 29 anni, quindi in due anni si diploma con il massimo dei voti, e durante questi due anni spamma un po' per il web, per l'internet, queste strisce umoristiche che conquistano decisamente il pubblico, tutti i suoi fans e tutti i suoi followers, e insomma parlano dei due personaggi di cui appunto abbiamo già discusso la scorsa puntata, e sono il Principe Nerazzurro e la Principessa Disincantata. Questo è appunto il suo progetto editoriale, totalmente indipendente e autoprodotto. Si sviluppa in 7 volumi, è ovviamente di genere umoristico e parla di sessualità, femminilità, e tutto questo, diciamo, da un nuovo punto di vista tutto personale, che è appunto quello dell'autrice, di Francesca. E racconta la storia di 7 donne diverse tra loro, che si interfacciano nel mondo della quotidianità femminile. Ma come sempre, se vi siete persi qualcosa, c'è anche l'articolo dedicato esclusivamente a lei sul sito di radiocittafugico.it, con sotto poi l'intervista. E andiamoci a sentire appunto il suo consiglio della settimana, che è la lettura di Cyril Pedrosa con Portugal. Il consiglio della settimana. Allora, Francesca, vuoi consigliarci qualcosa da leggere, un fumetto, sia che sia un'ultima uscita che qualcosa che invece sei andata un po' a scavare nella tua libreria personale? Sì, infatti ci ho pensato un po' e, diciamo, ho preferito andare a consigliarvi un fumetto, diciamo, che mi è rimasto proprio nel cuore, di uno dei miei fumettisti preferiti, che è francese, Cyril Pedrosa, che però in Portugal, diciamo, durante una sua crisi da scrittore, con appunto il blocco da scrittore, la affronta andando poi a scavare, diciamo, le sue origini portoghesi, e quindi ricercando insomma tutti i percorsi che aveva fatto il nonno fino ad arrivare in Francia, riscopre anche se stesso e riesce poi a ritrovare anche la voglia di scrivere e di disegnare dopo un bel periodo cupo. L'ho scelto perché è scritto in modo meraviglioso, prende tantissimo, è un fumetto bello sostanzioso, bello lungo. Poi l'edizione della Bow Publishing proprio l'ha stampato anche in dimensioni enormi, però è veramente, ne vale la pena, perché poi sia col suo tratto che col suo modo di raccontare, insomma, Pedrosa trascina parecchio. E poi perché comunque essendo parlando, insomma, del mestiere del fumettista, ci sono sempre rimasta molto affezionata, perché un periodo, diciamo, di confusione e di blocco purtroppo prima o poi capita a tutti gli artisti. Lo immagino. Ci tengo molto. Perfetto, grazie mille Francesca per questo tuo consiglio di lettura. Io ti ringrazio ancora e ti saluto. Grazie a te. Ciao. E buona giornata. Ciao. Ciao.

ore 11.05 parte questa seconda mezz'ora di Fujicomics e spero di farvi ballare un po' con la playlist di oggi. Abbiamo appena ascoltato Follow Rivers, canzone che fa da colonna sonora ad un film che si chiama La vita di Adele, film francese uscito non so bene quanto tempo fa, io l'ho visto credo un paio di anni fa e l'ho anche rivisto perché devo dire mi è piaciuto, e parla di questa storia d'amore fra queste due ragazze, queste due donne, e tra l'altro un film che fece abbastanza scalpore perché presenta molte scene di nudo di appunto queste due ragazze che hanno questa storia d'amore così, così travagliata, così complicata, ma ecco, a me invece è piaciuto molto. Mentre poco prima della pubblicità abbiamo ascoltato gli Smoke City con Underwater Love, questo gruppo britannico di genere acid jazz, trip hop, che come avete potuto sentire ha queste influenze di musiche brasiliane come la samba e la bossa nova molto, molto interessanti, e l'anno di uscita era il 1996. Ma continuiamo con ancora un po' di musica e passiamo ad uno dei decisamente dei più noti paladini dei diritti della comunità LGBTQ+, sto parlando di Elton John. E tra le mille canzoni di Elton John ho scelto una decisamente delle sue canzoni più famose, che è Rocket Man, che tra l'altro è anche il titolo del film che è uscito abbastanza recentemente sulla storia della sua vita, film che non ho visto, quindi fatemi sapere voi al 333-1-8-0-9-4-9-4 se l'avete visto, se vi è piaciuto, perché io inizialmente ho pensato ma che strano, è un film biografico della vita di un autore, un artista che è ancora in vita, ecco, di solito si fa post mortem, diciamo. E tra l'altro questa canzone è stata anche un po' al centro di gossip, diciamo così, perché David Bowie, quindi si ricollega un po' a tutto, a questa playlist di oggi, David Bowie non digerì mai questo brano perché disse che era, diciamo, molto simile al suo Space Oddity, e effettivamente diciamo che lo ricorda. Noi ci andiamo comunque ad ascoltare Rocket Man con Elton John. Pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. Lonely out in space on such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Dear, just my job 5 days a week. A rocket man, a rocket man. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man that think I am at home. Oh, no, no, no. Torniamo a parlare di fumetti e torniamo appunto a parlare di Salvatore Callerami. Come vi avevo anticipato all'interno del menu della puntata, oggi sarà presente ospite qua a Fuji Comics e vi volevo un pochino parlare di lui. Chi è Salvatore Callerami? È un fumettista autodidatta, classe 88, nato a Catania. Si è diplomato al liceo artistico della stessa città nel 2008. È diventato socio e presidente dell'associazione culturale Cuori d'Inchiostro, con cui pubblica nelle riviste antologiche CDM e Dissidioru. E ha partecipato anche alla mostra Nel segno di Andrea Pazienza nel 2010. Mentre nel 2014 ha pubblicato Dandelion per Shocktom Edizioni e nel 2016 Lui e l'Orso per Rambooks, poi ripubblicato nel 2019 per Shocktom. Ed è proprio questo fumetto, Lui e l'Orso, l'argomento principale di cui io e Salvatore abbiamo parlato. Vi spiego anche un po' velocemente così la trama, giusto per incuriosirvi ancora un po' di più. Lui e l'Orso parla della storia di due ragazzi, Diego e Simone, che sono appunto i protagonisti, che sono diventati finalmente una coppia dopo essere stati dei semplici coinquilini. Diciamo che i dubbi all'interno della relazione crescono e un equivoco risveglia delle gelosie del passato che spinge Simone, appunto uno dei due ragazzi, a ricorrere all'aiuto di una ragazza, Susanna, una cartomante, una strega urbana, che gli prepara questa pozione della verità che appunto dovrebbe aiutare Simone a sciogliere ogni suo dubbio, ogni sua insicurezza e ogni sua gelosia. Questa pozione ha come dire degli effetti un po' imprevedibili e Simone dovrà correre ai ripari, trovare una soluzione e farlo anche abbastanza in fretta, perché è in arrivo una cena di famiglia con i genitori di Diego, con insomma tutta la parentela che diciamo che non conoscono bene il figlio quanto credono loro. questa è un po' in succo la trama di Lui e l'Orso. Con Salvatore appunto abbiamo parlato di Lucca Comics, di com'è andata questa esperienza per lui, quanto affetto ha ricevuto dal suo pubblico, abbiamo parlato delle sue modalità di raccontare la comunità LGBTQ+, attraverso il mondo dei fumetti, del suo coming out. Insomma, ci siamo fatti una bella chiacchierata e andiamo appunto a sentirci direttamente le parole di Salvatore Callerà. Gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, siamo qui con Salvatore Callerami, benvenuto innanzitutto sulle frequenze. Ciao a tutti ragazzi, ciao. Allora, reduce da Lucca Comics, com'è andata questa esperienza? A parte la pioggia, diciamo che è stata una bellissima esperienza. Io la definisco un po' una Lucca sorprendente, riguardo ovviamente al mio lavoro, al mio progetto che è stato pubblicato dalla Shockdom. Non mi aspettavo tutta questa gente per il mio volume, quindi per me è stata una sorta di Lucca sorprendente, ecco. Bene, parliamo un po' appunto del volume che presentavi a Lucca Comics, edito da Shocktom, come hai detto tu, che è Lui e l'Orso. Come parte l'idea di questo progetto? Diciamo che Lui e l'Orso è nato nel 2015. Ed è partito come un gioco, ma anche come una sorta di coming out, perché ad esempio ancora nessuno sapeva di me, quindi diciamo che per me iniziare a disegnare una coppia di omosessuali era una sorta di, appunto, di coming out sui miei lettori, comunque anche i miei amici su Facebook e tutta la famiglia al completo. Quindi diciamo che è nato con delle illustrazioni e poi successivamente si è trasformato in strip e poi adesso con questo nuovo volume in una graphic novel, quindi una storia completa del mondo dell'orso, dei due personaggi protagonisti ma anche dei comprimari. E parlaci un po' di più dei personaggi appunto protagonisti di questo fumetto, principalmente appunto sono i due ragazzi che sono coinquilini inizialmente e poi diventano appunto, si innamorano. Sì, infatti sono Simone e Diego. Simone sarebbe il piccoletto, invece Diego è l'orso. E entrambi sono attratti l'uno dall'altra, solo che piccoletto, il primo è più sul romantico, quindi preferisce essere corteggiare più all'antica, quindi mazzo di fiori, cena a lume di candele, mentre l'altro invece è più diretto, è più spontaneo e quindi è più sul attratto fisicamente, ecco, più sul rapporto fisico. Però pian piano i due comunque si relazionano e cominciano a capirsi, a conoscersi meglio, fino ad arrivare appunto ad innamorarsi, proprio per l'aspetto contrapposto al proprio, no? Quindi a Simone piace l'atteggiamento diretto e spontaneo di Diego, e Diego piace invece l'atteggiamento romantico e dolce di Simone. Ovviamente tutto condito dai comprimari degli altri personaggi, in qualche modo cercano di influenzare il loro rapporto positivamente, ovviamente, ed aiutarli ad avvicinarsi, eccetto Daniele, che invece è l'antagonista rivale che rompe il cavolo e quindi mette i bastoni tra le ruote ai personaggi. Poi ovviamente ci sono tutti gli altri comprimari che hanno sempre un ruolo importante nella storia, come Susanna, che è la cartomante del gruppo ed è anche la migliore amica di Simone, Melissa, che invece è la migliore amica di Diego, che è una ragazza transessuale, poi Carlotta, l'amica di Simone, quella la ragazza ingenua che ama tantissimo il mondo LGBT, ovviamente a suo modo, poi la nonna, il pappagallo Britney, che dice le cose che non dovrebbe dire. Fantastico lui. E poi si aggiungono anche a tanti altri personaggi nel nuovo volume, come il Daddy Corno, che sarebbe un unicorno muscoloso. Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te. Di notte l'amore è sempre una sorpresa per me. Puoi respirare il profumo del mare, mentre dal vento tu ti lasci cullare, fare il signore col mendicante, non scordarsi mai però di essere anche amante. Stasera, che sera, stare tutto il tempo vedere all'aria i suoi tesori. E così nel chiuso puoi sentirti sempre fuori. Stasera, stasera, che sera, che sera. Passati, sapere adesso che non sono sciupati, perché tu sei sempre viva e presente. Ora come allora tu sei mia nella mia mente. Na, na, na, na. Senti, ti volevo chiedere, tu affronti tante tematiche importanti. Innanzitutto, sì, com'è parlare di queste tematiche all'interno del mondo dei fumetti e con quanta ironia e con quanta comicità affronti queste cose? Diciamo che, cioè, io sono così, io sono proprio ironico su tutto, quindi diciamo che ho preferito affrontare appunto questa tematica nella mia maniera, quindi con leggerezza. Proprio per far capire che effettivamente si parla di una meccanica di relazione tale e quale a tanti altri, quindi diciamo che ho voluto metterci del pepe con delle scene piccanti, però diciamo che il succo è quello, la leggerezza del tema e per come viene trattato. E per me è stato semplicissimo così, proprio perché comunque io sono omosessuale, quindi per me è stato molto semplice raccontare fatti della mia vita o fatti di altri in maniera così semplice, ironica, quindi piuttosto che raccontarlo come una tragedia, l'ho raccontato come, certo, una cosa bellissima, perché effettivamente per me fare coming out è stato bellissimo. Certo, quindi è una storia abbastanza autobiografica. Sì e no, è autobiografica nel senso che per me è stato un coming out, come ho già detto, e quindi diciamo che molte delle scene sono prese da fatti veramente accaduti, ovviamente con personaggi che non sono io, cioè nel senso non sono nessuno dei personaggi, però i fatti che accadono sono fatti e accaduti a me, naturalmente, o anche ad altri amici, che poi io ho fatto un mix, ovviamente, quindi è autobiografico per metà. Senti, invece, prossimi progetti, c'è già qualcosa in ballo? Tantissimi progetti, non so se conosci Dandelion è un altro mio vecchio progetto, sempre edito da Shockdom, è un fumetto fantasy, ovviamente non c'entra nulla con lui e Loss, è un progetto per lettori più piccoli, però che comunque strizza l'occhio anche agli adulti per le tematiche molto sentimentali, sull'affetto, sull'amore, anche sulla morte. Quindi sto lavorando insieme a Fazio è il colorista di Lui e l'Orso, insieme a Fazio stiamo lavorando appunto su questo secondo volume di Dandelion, e poi di mio sto anche lavorando al continuo di una mia autoproduzione sugli insetti arcani, sono gli insetti antropomorfi, una sorta di racconto illustrato. Sto lavorando a un terzo volume, poi devo dire grande richiesta, sto lavorando anche a un volume sulle Sailor Bear. Fantastico. Le Sailor Bear sarebbero questo gruppo di uomini barbuti e molto corpulenti che per combattere l'omofobia e il razzismo si travestono, sono dei travesti infatti, si travestono da guerriere Sailor per combattere appunto l'omofobia, l'ignoranza. E, segni del migliorato, ovviamente, in generale. Quindi sto facendo proprio una raccolta di queste strisce delle Sennorberg, poi e poi tanti altri progetti che al momento non posso svelare, ma che pian piano poi svelerò. Certo, io ti ringrazio tantissimo e spero che ci potremo sentire quindi per i tuoi tantissimi prossimi progetti che hai già, sì, insomma, non mi fermerò mai. Bene, ottimo, grazie ancora Salvatore, complimenti grazie per affrontare queste tematiche così importanti con veramente tanta ironia e tanta comicità. Grazie ancora, grazie. E spero che grazie ci sentiremo prossimamente. Grazie mille, ciao ciao. E chiacchiere sui 103.1. vicino che no. You kick us down in the dirt and we ain't going away. Ore 11:36 parte questa terza mezz'ora di Fuji Comics, sempre con la vostra Rachele Coppaloni, sempre su Radio Città Fujiko 103.1 FM. Nel frattempo qua è partito il balletto in tutta la redazione, soprattutto tra me e Willy all'ascolto dei Mattia Bazar, e siamo andati anche a rispolverare la discografia di Mattia Bazar con la fantastica voce di Antonella Ruggero, ovviamente. E abbiamo continuato a ballare, almeno io personalmente, con Kylie Minogue, e ora dopo la pubblicità e dopo la sigla di Fuji Comics abbiamo sentito Adam Lambert con Superpower. E Adam Lambert è stato conosciuto, diciamo, in America soprattutto perché è arrivato secondo all'ottava edizione di American Idol. Ma torniamo a parlare di fumetti e torniamo con Cristiana Fumagalli, in arte Arte Sghimbescia. Questo è appunto il nome d'arte che si è data a Cristiana, nato nel 2010, nel quale, proprio come ci racconta lei all'interno dell'intervista, ha racchiuso un po' tutto il concept dei suoi lavori artistici, ma soprattutto anche la sua personalità, il suo modo di fare, un po' bislacco, come dice lei stessa. Nella realtà appunto si chiama Cristiana, è una brianzola classe 91, è un'autodidatta e pubblica i suoi fumetti come appunto autoproduzioni, e anche di questo io e Cristiana abbiamo parlato. Diciamo che il suo stile viene definito a metà strada tra l'americano, il giapponese e addirittura l'underground, ma lei appunto lo definisce solamente sghimbescio. Con lei abbiamo parlato dei suoi due progetti principali, che sono Parental Control e El Drama, e appunto del mondo delle autoproduzioni, mondo in cui si fa strada appunto dal 2010 a oggi. E andiamo a sentirci proprio l'intervista e la chiacchierata che io e Cristiana ci siamo fatte. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, siamo qua con Cristiana Fumagalli, benvenuta su Radio Città Fujiko. Grazie, buongiorno, buongiornissimo. Allora, innanzitutto, da che cosa nasce e che cosa significa questo tuo nome d'arte? Arte Sghimbescia, lo sto leggendo bene? Sì, Sghimbescia. Allora, diciamo che quando praticamente ho iniziato a scrivere e produrre i miei fumetti, concentrandosi solo su una linea di pensiero che all'epoca era solo ed esclusivamente parental control, ho sentito l'esigenza proprio di creare una sorta di raccoglitore dove poter mettere tutte le mie produzioni, anche perché sono di varia natura, di stile di disegno diverso e insomma per cercare un attimino di raggrupparle sotto un nome identificativo. Perché non ho scelto il mio nome normale? Intanto perché è troppo lungo. 9 lettere, 9 lettere, troppo lungo, anche se bene o male facilmente riconoscibile, perché fondamentalmente il mio è un nome abbastanza non comune e il cognome è quello più conosciuto del nord Italia, per cui ho voluto un attimino differenziarlo usando un termine che bene o male è una locuzione colloquiale, ma che non viene usato spesso. Insomma, arte perché è fondamentalmente arte, sghimbescia perché è una sorta di aggettivo che descrive sia le mie produzioni che me come persona, perché io sono una persona tutta storta. è storto il mio disegno perché non è appartenente a nessun tipo di corrente, diciamo che è un mega miscuglio, è tutto ed ogni cosa. E poi perché appunto mi descrive proprio come persona. E come ti sei avvicinata al mondo del fumetto? Allora, diciamo che questo tipo di passione ce l'ho fin da quando ero piccola, disegnare, inventare delle micro storie, e devo dire che comunque il là per intraprendere proprio questo tipo di percorso, quindi anche finalizzato a determinati studi specifici, l'ho avuto alle medie. Io fino alle medie volevo fare la veterinaria, volevo fare proprio tutt'altro campo di studi, tutt'altro campo di vita, e l'ho avuto grazie a un insegnante che era nella mia classe, perché nella mia classe c'era un ragazzo con la sindrome di Down e c'era la sua insegnante di sostegno, che guarda caso aveva fatto l'artistico, tra l'altro. Quando gli ho sottoposto i miei lavori, mi ha dato una tale carica di sostegno, tale, come si può dire, mi ha trasmesso un po' di entusiasmo. Da lì, e quindi, ho preso proprio la decisione di intraprendere un campo di studi che era totalmente diverso dalla mia idea originale e avvicinarmi anche al mondo del fumetto, perché fondamentalmente era quello, più che il disegno così, illustrazione pura, proprio il fumetto, quindi inventare storie e associarci anche una comunicazione per immagini. Strade piene, la folla intorno a me, mi parla e ride e nulla sa di te. un po' dei tuoi progetti invece. Hai già citato Parental Control, di che cosa parla? Allora, Parental Control è, diciamo, la mia primissima storia come indipendente. Quindi puoi ben immaginare che ci sto dietro da anni. Diciamo che è stata la primissima stesura di quello che poteva essere un progetto autoprodotto indipendente. È una storia ambientata in un universo dove la magia, banalmente la magia alla Harry Potter, è normalità. Tutti sono in grado comunque di fare cose particolari, tutti quanti sono a conoscenza di questo status e a un certo punto ricompaiono i mostri. E i mostri, proprio quelli proprio banalmente, il vampiro, il fantasma, la banshee, il troll, giusto per il mostro della laguna, il demone, ritornano tutte queste figure. In un contesto così fantasy, l'ho usato come scusa perché a me piace un sacco quel tipo di rappresentazione, lo chiamo fantasy per generalizzare, ma non è totalmente fantasy, per infilarci argomenti comunque più nelle mie corde, cioè non la tipica banale avventura dove, che ne so, devono andare a cercare quello specifico manufatto per ristabilire l'ordine. No, in realtà gli argomenti sono un pochino più terra terra, tipo rapporto genitori-figli, i legami che si creano tra fratelli, e poi il tema anche della discriminazione e dell'accettazione della diversità. Questi sono i temi fondamentali di Parental Control, ambientati appunto in un contesto così mirabolante fantasy. Passiamo invece all'altro tuo progetto, che è quello che, come dire, mi ha colpito quando ti ho conosciuto a Lucca, e sto parlando di El Drama. Che cosa ci puoi raccontare invece di questo progetto? Dunque, El Drama è nato come ovvia conseguenza di un altro piccolo progettino, veramente molto piccolo, che avevo prodotto nel lontano 2014, mi pare. Nel lontano 2014 avevo prodotto queste piccole tavole autoconclusive dedicate ad un'applicazione per incontri lesbici, che adesso esiste ancora ma ha cambiato nome, e il fumettino in questione era L'amore ai tempi di Brenda. Era appunto anche lì, aveva lo stesso taglio di humor di El Drama, ma appunto era relegato al tema dell'applicazione per incontri. El Drama è nato, come dicevo prima, come ovvia conseguenza, perché mi sono ritrovata nella situazione di non poter più inventare delle battute originali, perché appunto l'app, per quanto un'applicazione su internet sia vasta, le battute erano troppo limitate, quindi ho voluto uscire e buttarmi nel campo della realtà. Da lì è nato il dramma, da lì si è strutturato anche un personaggio di spicco, che appunto è DQ, la drama queen, e le vicende girano tutte intorno a lei e anche alle sue due spalle, che sono appunto le altre due sue amiche, con tavole autoconclusive singole, simpatiche, ma fine a se stesse. E da lì poi appunto si è evoluto ulteriormente, perché quest'anno ho voluto inventare una vicenda un pochino più lunga per dare più spazio a questi tre personaggi che sono emersi, per evidenziare un pochino quelle che erano le loro caratteristiche caratteriali, e insomma buttarle appunto in un contesto reale dove poter sviscerare tutti i loro possibili lesbodrammi. Understand why we can't just hold on to each other's hands. This time might be the last I fear, unless I make it all too clear. I need you so. Sono tutte autoproduzioni, giusto? Sì. Ti muovi per il momento nel panorama, insomma, dell'autoproduzione. Com'è? Come ti ci stai trovando? Come riesci? Guarda, per quanto mi riguarda a livello proprio di produzione, per i temi trattati, il modo in cui vengono trattati, lo stile grafico, le scadenze, c'è veramente molta libertà in questo campo. Proprio perché sono tutti... passami il termine, limiti che ti autoimponi, perché non c'è qualcuno al di fuori del tuo contesto lavorativo che ti dice ok, entro tot devi farmi tot tavole, devi farmele in questo modo, devi farmele così così così. E col fatto che comunque porto avanti tutte le singole fasi di procedura, cioè butto giù il soggetto, poi lo sceneggio, poi faccio lo storyboard, poi disegno, se faccio una tata posso darmi della deficiente da sola, capito? Certo, la libertà, insomma, di essere indipendenti, appunto. Esatto, più che altro l'unica pecca di questo campo è che ti devi specializzare in più settori, nel senso, ti produci, ok, devi anche pubblicizzarti, quindi devi un attimino recuperare un po' di fondamenti del marketing, stare dietro comunque ai canali social, ai canali di vendita, al sito internet, devi comunque trovare dei metodi alternativi per far presente al pubblico e comunque pubblicizzarti, appunto, che ci sei, che fai cose, che le tue cose sono interessanti e insomma guadagnarti un pochino di fiducia e poi partecipare anche alle fiere, occuparti della logistica, i più fortunati sono in due a farlo, questo tipo di procedimento, e diciamo che si possono smezzare il lavoro. Io di per me faccio tutto. A proposito di contatti, dove ti possiamo trovare? Guarda, mi potete trovare su Facebook, su Instagram, su YouTube. Ecco, YouTube era uno di quei progetti che avevo in mente di fare, poi sono saltate fuori delle collaborazioni e lo devo ancora incrementare, ma c'è il mio canale YouTube e ho anche in mente un bel po' di progettini da pubblicare. Su Twitch, dove tengo una live di disegno una sera a settimana e questa settimana ricomincio, un paio d'orette in compagnia a sparare boiate nel mentre disegno. Poi sul mio sito internet, che è www.artesghimbescia.com, che anche quello in un paio di settimane lo aggiornerò, perché ci sono delle ho aggiunto delle novità importanti quest'anno. Il sito Etsy, ho creato il mio negozio online dove per il momento ho caricato solo il volume di El Drama, Deluxe Drama, dove si può acquistare. E infine il sito di Redbubble, che è un sito che permette agli artisti di crearsi il proprio merchandising e quindi di trovare magari alcune delle mie illustrazioni disponibili su supporti che possono essere dalla maglietta alla tazza, al tappetino per il bagno, perché l'hanno messo come prodotto, e anche la tenda per la doccia, hanno messo di tutto. Ottimo, quindi ci sono veramente tantissime modalità con cui contattarti e arrivare ai tuoi lavori, insomma. Esatto. Sì. Perfetto, grazie mille per la tua disponibilità, Cristiana. Grazie a te e grazie per avermi offerto questa possibilità. Comics, fumetti, musica e chiacchiere sui 103.1. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see, I've got to break free. I've got to break free. Ore 12:05, torniamo con Fuji Comics, sempre con Rachele Copparoni, sempre sui 103.1 per questa ultima mezz'ora appunto di Fuji Comics. Siamo tornati ascoltando i Queen con una delle loro più grandi hit di sempre, cioè I Want to Break Free. Ma torniamo a parlare anche di Bilbo il Bull, il festival del fumetto e dell'illustrazione tutta bolognese dal 29 novembre al 1 dicembre, che appunto si svolgerà letteralmente fisicamente tra tutte le vie della nostra città. Avevamo già parlato di alcune delle mostre del Bilbo il Bull per questa edizione 2019, vi avevo anticipato tra le tante mostre che ci saranno quella di Nora Krug e di Ivan Alagbe. Ora volevo andare un po' a parlarvi di altre tre mostre che ci saranno in questi giorni a venire. Partiamo da Alberto Breccia e il Signore delle Immagini, che sarà dal 30 novembre al 7 gennaio alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. E l'inaugurazione sarà appunto sabato 30 novembre alle ore 12, promosso e organizzato appunto, come ho detto, dalla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna in collaborazione col Comune di Bologna e le istituzioni biblioteche bolognesi. Alberto Breccia è stato maestro del fumetto sia seriale che autoriale, ha realizzato graphic novel, ha usato dalla china alla pittura, al collage fino al fotoritocco, insomma diciamo che le tecniche che ha utilizzato sono veramente tante. È stato amato da tantissimi intellettuali italiani come Oreste Del Buono, Umberto Eco, Fruttero Lucentini, che lo hanno considerato diciamo fuori dal coro di chi ha come dire, di chi narra le storie tramite immagini e che ne fa appunto un vero e proprio lavoro. Proseguiamo con un'altra mostra di Kalina Muova e si presenterà all'interno di questa mostra di Ana Sottosopra. Il 19 novembre parte la mostra e arriva fino al 6 gennaio e si troverà al Mambo Museo d'Arte Moderna di Bologna. Ci saranno anche dei laboratori nel corso delle giornate per bambini e bambine a cura di Canicola, e vi posso già anticipare che ai nostri microfoni, piccolo spoiler per le prossime puntate, ci sarà appunto l'autrice Kalina. Tutti questi appuntamenti sono in occasione della settimana dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 2019, e appunto in questa mostra ci sarà una vera e propria immersione nell'universo di Diana del Piccolo Popolo attraverso tutte le tavole a fumetti, disegni, materiali, insomma tutto ciò che compone l'immaginario dell'autrice. E il percorso espositivo è fatto sì per bambini e bambine, ma ovviamente anche per gli adulti. Concludiamo con un'altra mostra sempre al Billboard Bull, Taccuino Selvaggio, 30 novembre e 3 dicembre a Millennium Gallery. L'inaugurazione sarà appunto il 30 novembre alle ore 19, con il contributo della Regione Emilia Romagna nell'ambito del progetto Polimero, promosso da Arci Emilia Romagna e sponsorizzato dall'Artistica. Al Taccuino è appunto dedicato questa sesta edizione del Premio Nazionale Arci Farben, che celebra lo sketchbook, quindi appunto il Taccuino come luogo del non definito, di appunto tutto quello che i vari artisti si portano in giro e fanno magari a volte di fretta, che poi diventa un lavoro premio, un lavoro vero e proprio. E gli artisti vincitori del premio, selezionati da una giuria di qualità, saranno esposti insieme a quelli di alcuni ospiti presenti appunto per questa edizione del Billboard Bull, che vi ricordo sarà dal 29 novembre al 1 dicembre. Ma direi di continuare ancora un po' con la musica. Adesso ci andiamo ad ascoltare gli Scissor Sister, gruppo newyorkese che ha fatto successo nel 2000 col suo dance pop rock partito dai club gay appunto di New York. E questa è Don't Feel Like Dancing. Wake up in the morning with a headline. In diretta con una bella novità che riguarda il mondo dei fumetti, perché questo mondo continua ad offrirci tante sorprese nel panorama dell'editoria, conquistando, diciamo, degli spazi che in passato spesso sono stati riservati solo alla letteratura, alla prosa o alla poesia. Riguarda il caso del più prestigioso premio italiano dedicato alla letteratura di ambito storico, e sto parlando del premio Manzoni. Infatti la graphic novel La vita che desideri di Francesco Memo e Barbara Borlini, che è stata pubblicata da Tunuè all'inizio del 2019, ha vinto, diciamo, è stato il primo fumetto a vincere un premio speciale assegnato proprio dalla giuria tecnica del premio letterario Alessandro Manzoni, composta da autorevoli esponenti dell'editeria italiana. Questo fumetto, La vita che desideri, racconta la storia di un amore omosessuale in un'epoca tanti cambiamenti sia politici che sociali, e diciamo che ricopre tanti anni della storia italiana, all'incirca 30 anni, dalla prima guerra mondiale all'8 settembre 1943. Il libro è scandito da diverse tematiche, dai temi della violenza sia pubblica che privata, dal conformismo, la Shoah, le leggi razziali, le deportazioni e appunto l'omosessualità. Al centro della narrazione di questo fumetto c'è la vita di Giulio, che nel 1914 assiste a un omicidio personale e viene mandato a combattere poi sul Carso, e lo ritroveremo nel 1935 quando, lavorando in un hotel sul Lago Maggiore, conosce Giorgio, che è un uomo, un ragazzo totalmente accecato dall'ideologia fascista, con cui però inizia a sviluppare appunto una relazione. Infine nel 1943, nell'autunno del 1943, Giorgio, che diciamo ha cambiato un po' sponda ed è passato ai partigiani, riprende i contatti con Giulio per condurre un'attività di spionaggio insieme a lui. Questa è un po' la trama del fumetto, e devo dire sono molto orgogliosa di parlarvene, sia per le tematiche che tratta, sia per il fatto che abbia vinto un premio italiano così prestigioso. Ma veniamo un po' più a temi di attualità, perché è uscito, anzi è stato annunciato, un fumetto che parlerà dell'Ilva di Taranto, la fabbrica d'acciaio più grande d'Europa. Allora, c'è sia una mostra che si inaugurerà l'8 novembre nel capoluogo tarantino, quindi diciamo un po' lontano da noi, ma appunto l'Ilva è anche protagonista di un romanzo che sarà trasformato in fumetto. Il titolo del romanzo è Nella perfida terra di Dio, e lo ha scritto Omar di Monopoli, ed è stato pubblicato nel 2017 da Adelphi Editore. Durante il Lucca Comics la Bonelli Editore ha annunciato che a primavera del 2020 uscirà la versione a fumetti del romanzo. Non si sa ancora se sarà unicamente un numero singolo oppure se sarà il numero zero di una nuova serie pubblicata appunto dalla Bonelli. È un po' presto per dirlo, vedremo come proseguirà la storia. Nel frattempo si sa già che i personaggi hanno preso forma, diciamo, grazie alla matita di Giuseppe Baiguera, scusate, e alla sceneggiatura di Maurizio Colombo. E appunto questi personaggi sono un vecchio pescatore, un malavitoso che avrebbe ucciso sua moglie, due ragazzini, figli tra l'altro dello stesso malavitoso, e una serie di strani individui. E questo appunto è l'argomento di cui parlerà il fumetto che uscirà nel 2020 pubblicato dalla Bonelli. Mentre l'altra storia disegnata che racconta Taranto e la sua fabbrica sarà proposta in una mostra che si chiama Il Varum Iaga, organizzata da Piero Angelini, illustratore di Martina Franca, capitale della Valle d'Itria. E sarà appunto una mostra che insomma è un po' lontano da noi, però ve ne volevo comunque parlare perché metti caso che qualcuno si trova nelle vicinanze di Taranto, può andare a vederla. E, detto ciò, direi che è ora di passare al nostro contenitore di eventi, di appuntamenti bolognesi che vanno da questo mercoledì fino al prossimo, quindi per tutta questa settimana, curata come sempre dal nostro Alessandro. Un saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Fujicomics, io sono Alessandro e questi sono tutti gli appuntamenti nella settimana nell'ambito dell'illustrazione e del fumetto. Apriamo con un appuntamento del 15 novembre a partire dalle 18 all'Arci Bologna in via Emilio Zago 2 con il premio Farben 2019 Taccuino Selvaggio. Arci Bologna dedica la sesta edizione del premio Farben allo sketchbook come luogo del tentativo, della freschezza dell'errore e del non finito. Sono accettati sketchbook di viaggio, taccuini pieni di ritratti, paesaggi o oggetti, bozze di un fumetto, bozze per un film, esercizi di mano e di testa. Il premio è aperto a disegnatori emergenti o professionisti, italiani o residenti in Italia, che abbiano un'età minima di 14 anni. La partecipazione è gratuita. La mostra delle opere finaliste e la premiazione si svolgeranno il 30 novembre 2019 presso la Millennium Gallery in via Riva di Reno 77/A nell'ambito della 13ª edizione di Billboard Bull. Domenica 17 dalle ore 16 al Mambo in via Don Minzoni la mostra Diana Sottosopra dedicata all'omonimo libro a fumetti di Kalina Ristova Muova, sesto titolo della collana di fumetto per l'infanzia a cura di Canicola. La mostra sarà un'immersione nell'universo di Diana e del piccolo popolo attraverso tavole e fumetti, disegni e materiali di riferimento per l'immaginario dell'autrice. Il percorso espositivo è pensato per un pubblico di bambine, bambini e adulti. Lunedì 18 novembre alle ore 19 alla Confraternita dell'Uva in via Cartoleria 20, incontro off di Billboard Bull in collaborazione con il gruppo di lettura La Confraternita dei Lettori, coordinato da Francesca Zambito, che si cimenterà nella lettura del graphic novel Heimat di Nora Krug. All'Oratorio San Filippo Neri in via Manzoni 5, martedì 19, Zero Calcare incontra i lettori e firma le copie del libro La scuola di pizze in faccia del professor Calcare. Questa nuova raccolta di storie, precedentemente apparse sul suo blog, su Wired, su Best Movie, su Repubblica e L'Espresso, è la più corposa delle sue produzioni editoriali. Corredata da un preciso sommario cronologico, è impreziosita anche da una nuova storia inedita in tre parti, per un totale di 25 pagine, in cui l'autore di Rebibbia riflette sul necessario equilibrio tra il suo narrare più impegnato e quello più dégagé. Questi erano gli appuntamenti della settimana, io vi auguro buon proseguimento di ascolto sulle nostre frequenze. E chissà se martedì prossimo riuscirò a fare la fila immensa dei firmacopie di Zero Calcare, chissà se più che altro questa volta eviterò di fare e di aspettare fino a luna di notte per avere un suo fantastico disegnino nel mio fumetto, ma speriamo bene. E siamo giunti alla fine di questa puntata di Fuji Comics e quindi siamo arrivati ai saluti finali. Io ringrazio come sempre tutti i miei ospiti, tutti coloro che mi aiutano a compilare questa lunga puntata. Vi do appuntamento ovviamente a mercoledì prossimo, sempre su Radio Città Fujiko, sempre dalle 10.30 a mezzogiorno e 30. Ringrazio tutti gli ascoltatori e tutte le ascoltatrici, un bacio grande e buon appetito. Ciao!